Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Magazine, 8:08 minuti per questa rassegna stampa che ci porterà attenzione anche a quello che è proposto dal Breakfast Club, o che verrà proposto con un'ispirazione reciproca per queste pubblicazioni che tengono compagnia durante il weekend. Iniziamo con l'articolo che subito ha attratto la mia attenzione a pagina 19 per la lettura del Corriere della Sera. Allora, la nostalgia è l'inganno. Già da questo, insomma, mi ha portato a essere in dissenso con Vanni Santoni, che ha portato queste parole, e conclude: di chi non sa pensare il futuro. Le versioni romanticizzate del recente passato dilagano in TV, al cinema gli algoritmi puntano sulle emozioni del già ascoltato, questo lo sappiamo. Il sociologo Grafton Tanner va oltre e suggerisce una più consapevole visione del tempo. Ma come? Beh, abbastanza articolato e arzigogolato il termine di questo articolo che andremo a leggere per quanto riguarda le soluzioni proposte. Dov'è finito il tempo perduto? Beh, un secolo fa Proust ha dovuto scrivere un romanzo in 7 volumi per provare a capirlo, ma oggi viene facile anche a chi non ha un sommo romanziere a indicare almeno un luogo in cui si può trovare nella cultura pop. Le canzoni tutte si assomigliano a loro volta, e a loro volta si assomigliano ad altre del passato. Beh, al cinema e in TV, sequel e remake occupano più spazio dei prodotti originali, e anche quando non lo fanno, spesso giocano con la nostalgia, riproponendoci versioni romanticizzate del passato recente, che siano gli anni 80, e poi cita alcune serie che io non conosco, gli stessi anni 70. Non è un processo nuovo, in effetti, restando sullo schermo, comincia con la romanticizzazione degli anni 50, recuperando alcuni film o serie, film come Grease o come Happy Days, che in effetti nascondevano invece quello che di brutto stava succedendo nel periodo. La guerra di Corea, per quanto riguarda gli Stati Uniti, in Happy Days è il primo esempio che mi viene da portare. Molte volte, per quanto riguarda questa nostalgia, ci sono dei punti ben precisi, continua Vanni Santoni nella sua recensione del lavoro Nostalgoritmo, politica della nostalgia. Per quanto riguarda l'Italia, parla del tremendo ventennio, e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, parla di 11 settembre, e anche di slogan Make America Great Again, fai l'America nuovamente grande, no? Questo slogan che riporta a una nuova, anzi rinnovata realtà. E per quanto riguarda altri aspetti, il New Deal, il nuovo percorso, ecco, vengono usate in ogni parte in politica, forse perché nessuno ha più molto di nuovo da dire rispetto a un futuro che, comunque lo si guardi, appare in ogni caso molto fosco. Io direi di non affidare alla rete tutto ciò, io direi proprio di non ripercorrere ma restarne legati, in quanto la nostalgia è fondamentale, secondo me, ne abbiamo appena parlato, e non solo la nostalgia, il ricordo anche come presenza di monito, il ricordo come bellezza, e la nostalgia chiaramente ne fa parte, la nostalgia anche come motivo di critica, e come ho detto, parlare di nostalgoritmo facendo il gioco di parole tra nostalgia e logoritmo non è esattamente, secondo me, una cosa molto molto positiva. E per quanto riguarda le paure imminenti, parla di ecologia. Io aggiungo anche i conflitti, che sono certamente motivo struggente di paura, di timore. Io spesso mi chiedo cosa racconteranno tra 100 anni i libri di storia. Se ancora si studierà la storia, perché tutto ormai è silicio, tutto ormai è fluido, tutto ormai è facilmente rivedibile. E per quanto riguarda la storia, come verrà narrata, come verrà studiata, come verrà proposta, ecco, per tutto ciò le domande me le pongo e come, e la nostalgia e l'inganno di chi non sa pensare il futuro probabilmente è fuorviante per quanto riguarda quello che invece è un motivo indubbiamente di critica. E allo stesso modo il famoso modo di dire di fare un passo indietro per riuscirne a fare due in avanti potrebbe essere invece motivo di ispirazione. L'autore però non schiva l'inevitabile domanda che viene a porsi il lettore mentre procede nella lettura: che fare allora? E prova pure a dare delle soluzioni, ancorché difficili da immaginare, prima ancora che applicare. Infatti, come vi ho detto, è abbastanza arzigogolata la cosa. L'idea è quella di un paradigma temporale, creep, cioè storpio, o di un paradigma temporale queer, come opposto generale a straight, che in inglese vuol dire etero, ma vuol dire anche dritto. E quindi, ovvero modo di pensare il tempo che non siano necessariamente legati all'asse obbligato passato, presente, futuro, e perciò risultino capaci di muoversi fra i tre piani prendendo ciò che è più utile. Quindi il tempo non esiste più, ma esiste prendere l'aspetto migliore di queste parti fondamentali tra passato, presente e futuro, ma è impossibile senza metterli in dialogo in una visione più completa e ovviamente anche cronologica. Questo è un aspetto di soluzione abbastanza arzigogolato, mi viene da portare, e soprattutto con quello che è stata la famosa rivoluzione digitale, di cui tra poco vedremo alcuni aspetti, ne rende ulteriormente difficoltà immaginare il futuro. Ma alle 8 e 15 minuti è il momento di prendere un break, come dice lo stesso Milton Bright, dal brano che vi sto proponendo, Let's Take a Break. Lui è Milton Bright, a tra poco. Di questo futuro, ed è importante, è importantissimo, è il linguaggio. Restiamo sulla lettura, pagina 21, quindi due pagine dopo questa critica al saggio che ho appena letto, arriviamo a questi orizzonti. E che orizzonti! L'importanza del linguaggio ne sentiamo parlare tutti i giorni, a volte anche in maniera discutibile, a volte in maniera invece assolutamente importante. Questo è un equilibrio che bisogna trovare, e per quanto riguarda lessico e linguaggio, a pagina 21 troviamo: l'inglese dei social diventa il nuovo dialetto, e qua mi tremano le vene ai polsi. Il dizionario per boomer. Cosa si intende per boomer? Si intende i nati tra il 1946 e il 1964, quindi non lo sarei. Per quanto riguarda il mio anno di nascita, che è il 69, è l'invisible generation invece in questo caso, tra il 65 e il 1980. Perché una generazione invisibile? Questo me lo sono sempre chiesto, e perché così è stata definita, anche se non mi perdo in queste divisioni. Trovare sempre in questi piccoli aspetti motivo di ghettizzazione, di racchiudere nei recinti addirittura dall'anno di nascita, secondo me è veramente controproducente, perché ci si divide ulteriormente in un momento in cui invece il dialogo intergenerazionale è un fondamentale. Ma andiamo più all'interno di questo lavoro, che porta anche degli esempi, come le parole inglese slay, da un verbo inglese che letteralmente significa, pensate, uccidere, ma anche il valore figurato di primeggiare, usato un po' come dai, spacca, cioè trionfa, domina la scena, a volte anche così coniugato in forme come hai slayato. E portare questi verbi e concluderli con le desinenze in italiano per me è veramente qualcosa di allucinante, oltre che cacofonico. E direi proprio che è come voler dare una patina, una vernice di società e di cultura a dello sterco, scusate la parola, puoi verniciarlo finché vuoi, ma rimane sempre un escremento lessicale. Tryhardare, sentite questa da Try Hard, mettercela tutta, impegnarsi al massimo. Hai tryhardato forte, hai superato l'esame, una delle tante espressioni che vi sono diffuse a partire dal mondo allucinante dei videogiochi, nella fattispecie il guerresco, e guarda un po' a caso, sempre di guerra, Fortnite. Quindi tryhardare, da tryhard, parlavo di desinenze in italiano, che oltre a una cacofonia porta a qualcosa che va a, in maniera tecnica, va a contrarre, va a mettere contrazione, essendo né italiano né inglese. Insieme ai social network, i videogame rappresentano spesso l'epicentro di questi neologismi. Il meccanismo di derivazione non è nuovo. E fa un paragone col mondo di ieri. Il dialetto è stato per mezzo secolo una delle principali fonti a cui il linguaggio giovanile ha attinto per saziare la sua sete di novità. Anche in questo caso la trasformazione, bisogna usare il termine, diventa slang. Molte parole in bolognese che non mi permetterei mai, non mi sarei mai permesso di ripetere al mio nonno filosofo Raffaele Piana, non gli avrei mai detto bella vez, cioè piuttosto mi taglio la lingua. Anche perché sennò mi arrivava una cinquina, e faceva bene che il muro di rimbalzo me ne dava un'altra. E tanti sono gli esempi in queste modalità di comunicazione. Sarebbe importante la comunicazione, eh? Abbiamo così un'attenzione forte per determinati aspetti, cerchiamo di averle anche questo caso. Non è il mio, non è un essere conservatore, non è essere assolutamente tutt'altro, è non essere becero, perché in questo caso si tratta veramente di un aspetto che si sta trasformando, e a pagina 21 della lettura, prestigioso inserto culturale dal Corriere della Sera. E quindi non diamo una patina di cultura a tutto ciò, quando, come ho detto, di cultura ce n'è veramente poca, è veramente ima l'aspetto culturale, e non è essere con uno sguardo costantemente al passato, assolutamente, però spoilerare, possiamo dire svelare. Oh, yeah. E non è neanche un voler salvaguardare in maniera integralista. Io sono un sostenitore del dialetto, il vero dialetto, che non è una lingua, è una tradizione orale, però bisogna salvaguardarlo. Per cui riportare anche in questo caso una commistione gergale in slang, diciamo che non l'amo tantissimo, anzi mi infastidisce. Dopodiché concludo con questa formazione che riporta a pagina 21 con Giuseppe Antonelli per presentare il lavoro di Beatrice Cristalli, Dizionario per Boomer, capire le nuove generazioni. Ok, procediamo. Vi ho parlato dei baby boomer dal 46 al 64, della generazione X, Invisible Generation, e poi facciamo un piccolo approfondimento su questa invisibilità. Generazione Y, 1981-1996, sono i millennials. Generazione Z, generazione Z, zoomers, dall'87 al 2012, il 2013, quindi si può dire poco più che infanti, con tutto il rispetto, anzi con una malcelata invidia, ma positiva. Screen agers, anche in questo caso perché sono costantemente abituati, bella roba, a dialogare con uno schermo piuttosto che vivere una realtà, e così definiti screen agers. Quanto ci aiutano i grandi classici invece per avere l'idea di più termini possibili. È uno studio continuo che faccio, e non solo per il mio lavoro, per l'eloquio, ma anche per la mia scarsa preparazione accademica, quasi nulla, e per quello che leggere tantissimo, soprattutto i classici, è indispensabile, non solo per chi come me ha linguaggio limitato, ma anche per chi ha avuto una formazione anche classica più approfondita. Non fa male. Ma questo lo hai letto, dice a pagina pagina 10, tutto libri, quando riporta Fedor Dostoevskij con Le notti bianche. Allora, Le notti bianche è stato il primo libro di Dostoevskij che ho letto durante la mia permanenza nei depositi delle memorie. Da lì poi si è aperto un vaso di Pandora per quanto riguarda slavismo e letteratura russa, di cui sono diventato veramente dipendente, e appunto mi ha dato la possibilità di trovare nelle sensazioni e nella comunicazione, nella capacità di scrittura, nella bellezza dello scrivere, soprattutto di leggere questi grandi talenti, un senso di sollievo, un senso di crescita, un importante conoscere variati aspetti della nostra esistenza. Ne dico uno, il tempo, ne dico un altro, il sentimento. Per quanto riguarda la letteratura russa, tutti gli argomenti citati e trattati ne sono protagonisti. Da questo articolo di Sandro Bonvissuto, a pagina 10 di Tutto Libri della Stampa, in un paragrafo, ma questo lo hai letto? Beh, il protagonista è Notti Bianche di Fedor Dostoevskij, anche se l'articolo inizia con, certamente però nel mio caso sarebbe stato utile, dipende, io sono contento così, non ho rimpianto di aver iniziato questo percorso letterario con il capolavoro Le notti bianche, perché dice ok, ci sono i capolavori che hanno consacrato il successo di grandi autori, tra l'altro uno me lo direte voi dopo la pubblicità, perché vi voglio regalare Le notti bianche di Fedor Dostoevskij, i grandissimi capolavori che ben conosciamo, tra Karamazov, tra Delitto e Castigo, ne potrei citare Millanta per quanto riguarda il grande scrittore russo, però la bellezza di riscoprire qualcosa che non è esattamente andato sotto il riflettore di un'immensa bibliografia. È un grande piacere leggere e rileggere qualcosa che non è stato considerato, diciamo così, tra i maggiori dell'autore, che è considerato tutti i tempi, direi, non solo da me. Certo, è vero, però cominciare dalle notti bianche con questa figura di un'esperienza che porta il protagonista, questo giovane che vaga per la città già di per sé onirica, che è San Pietroburgo, questo luogo dove o è sempre buio o vi è sempre la luce, le famose notti bianche, e in questa luce le persone per lui diventano come trasparenti. In questo caso ovviamente mi trattengo dalla recensione per Le notti bianche, le persone diventano trasparenti in questo paesaggio onirico. È innamorato, si innamora di questa sconosciuta, ne fa una vera e propria passione, si renderà conto poi in seguito che, e in questo racconto lungo o romanzo breve, fate un po' voi, secondo me assolutamente da leggere, qualcosa che ci racconta a noi stessi determinate emozioni che sicuramente o senz'altro le persone più sensibili hanno provato, e sono le parole d'amore più belle. Allora, detto questo, partiamo con un piccolo quiz per intervallare prima della pubblicità, perché oramai sono le ore 8:30. Capolavoro di Dostoevskij, il principe Mishkin ritorna dalla Svizzera e verrà definito in un modo molto offensivo, ma molto offensivo, è uno dei capolavori, considerato forse il capolavoro, per me è Delitto e Castigo il capolavoro, però per molti è questo il capolavoro. Ed è una definizione non certamente un complimento. Per avere Le notti bianche, chiedo a voi come viene definito, appunto già dal titolo di questo capolavoro di Dostoevskij, il protagonista, cioè lo chiedo a voi al 333-180-9494, è chiaramente uno dei capisaldi della letteratura, aspetto le vostre risposte, non è certo una definizione, anzi se ce lo dicono ci arrabbiamo, è molto molto offensivo, ed è una parola sola, è il titolo, aspetto la risposta, il grande Dostoevskij per voi con Le notti bianche al 333-180-9494, a tra poco. Thank you. Inavvertitamente è ripartita la sigla dei Magazine. Eh sì, ce ne faremo una ragione, però non una regione, mi sembrerebbe troppo grande per questa disattenzione. Mi sono comportato veramente da idiota. La risposta esatta non voleva essere un'offesa, ma la risposta al quiz. Esattamente, non esageriamo per questo piccolo neo di regia, ne facciamone una regione, ma ce ne faremo una ragione. E magari, dai, disattento, distratto, anche se l'accezione di questa parola nel romanzo, come ben sapete, poi il principe Mitskin è ben diversa. Ma le notti bianche saranno riprese come lettura o rilettura, perché invito a questa rilettura da Matteo. Grazie Matteo, non voleva essere un'offesa, ma la risposta al quiz. Grazie. Intanto mi segnala Lino, ne approfitto per salutare anche Wolf, che non vi è ascolto con lo streaming dalla pagina web. Sarà immediatamente avvertito il nostro tecnico. Grazie per la segnalazione e grazie Matteo per aver partecipato al quiz. Grazie Lino per la segnalazione tecnica, oltre che la co-conduzione al 333-180-9494. Un saluto per la recente scomparsa di Marina Pitta. È una vita per il teatro, una vita per il teatro impegnato, attrice e regista, protagonista di un sodalizio artistico e umano con Gianfranco Rimondi. Lei tenace, generosa, sempre capace di sperimentare. È scomparsa di recente Marina Pitta per un male che non le ha lasciato scampo. Quindi, ricordando la sua presenza come impegno politico e sociale, classe 1949, solo lo scorso inverno era tornata in scena all'oratorio di San Filippo Neri per presentare ancora una volta Mamma sono tanto felice, opera scritta nel 1963 da Gianfranco Rimondi, il compagno di una vita, scomparso 3 anni fa. Raggiunti da questo abbraccio, il nostro saluto a Marina Pitta, importante personaggio e oltre per quanto riguarda il teatro e il palcoscenico. Breakfast Club si occupa, come ben sapete, con In Scena di tutto ciò, per cui abbiamo portato questo accorato saluto anche per onorarne la memoria e la grande ispirazione artistica. L'importanza dei suoni, ad esempio a proposito di Termi, la cosmofonia è la prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore, contro la sordità universale, un mondo di suoni, secondo Caspar Anderson, tra scoppi, fragori, bisbigli e silenzi si cela la possibilità di capire il funzionamento dell'universo, la musica della natura, i vulcani, le aurore, gli arcobaleni. Del resto il colore è suono e il ritmo stesso della vita, il colore ha una frequenza, il colore ha un tono. Tra i suoni prodotti dall'umanità e qui considerati compaiono strumenti musicali strani, molto strani, e anche pratiche sociali. E poi i termini che vengono portati, la geofonia, la biofonia e l'antropofonia, la cosmofobia. Fonia, la cosmofobia, un po' ce l'abbiamo tutti, dell'infinito, dell'immenso. In questo caso però non è phobos, ma è il phonos, cioè il suono. Il Il vento tra le fronde, uno stormo di storni, il ticchettio di un picchio, l'avete mai sentito? È inquietante? Piacevolmente inquietante, perché all'inizio, sempre nei depositi della memoria, ho avuto occasione di ascoltare il ticchettio di questo affascinante volatile e mi chiedevo, ma attenzione, qualcosa sta cedendo, perché è come uno scricchiolio. Sono talmente ravvicinati questi colpi di becco contro il legno, sono talmente ravvicinati che sembrano uno scricchiolio continuo e dico, ma qualcosa sta cedendo, ma no, è un picchio. L'abbiamo trovato poi facendo molto silenzio e attenzione. Il picchio è molto piccolo, pensavo fosse più grande, forse perché ne avevo idea dell'antropomorfo Woody Woodpecker. No, no, il picchio è molto piccolo. Dunque, ascoltando i rumori si potrà capire meglio dove ci trascina la follia degli uomini e delle cifre e quali speranze sono ancora possibili. Forse aveva ragione Schaffler, se il problema dell'inquinamento acustico non verrà rapidamente preso in considerazione, il punto di arrivo sarà una sordità universale. És negão direito desistir. Em adolescência um cativo direito destruir. Ser minha bediça, ao menos se garantir uma residência na casinha branca quando parti pés badabor. Cent'anni fa scompariva Bud Powell, i dolori del jazz, lui grandissimo pianista, musicista, purtroppo affetto da disturbi di diversa abilità dal punto di vista mentale. I dolori del jazz sono ripresi in tanti lavori che resteranno imperituri. Cent'anni fa il grande tormentato pianista afroamericano pioniere del bebop e il rapporto con Thelonious Monk lo trovate a pagina 14 di Alias, edizione del sabato. Incoerenza, fughe drammatiche, come una presenza piena nella musica, questo contraltare a Thelonious Monk che faceva della pausa e del silenzio ottava nota e motivo di composizione assolutamente moderna. Bud Powell con questa modalità invece più piena, più veloce, anche se qui lo stiamo ascoltando in un brano che per me è un capolavoro assoluto e riporta al titolo di Dry Soul, con il quale arriviamo alla conclusione di questi magazine, dando appuntamento a domani per il martedì imprevedibile sui 103.1. con il Move to Groove anticipato da altri suoni. Parleremo del secondo appuntamento Angelica al Teatro San Leonardo, centro di ricerca musicale. Porteremo nella prossima puntata un aspetto sacro dello zodiaco molto interessante che ho trovato nell'edizione domenicale del Manifesto, perché gli articoli dei magazine restano sempre e comunque attuali. E alle 8:50 minuti che scoccano in questo momento mi congedo con un caloroso abbraccio, dando appuntamento a domani, ringraziando per l'attenzione, e dal vostro William Piana una buona settimana e un buon lunedì. Mi raccomando, domani super mattiniere e super mattinieri alle ore 7 con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti.